Sura del pomeriggio, capitolo 103 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 3 ayat, ed è scesa dopo la Sura 94, al Sharh. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo, io, Allah, lo giuro sull'Asr, il tempo che precede il tramonto del sole. In verità, l'uomo è di certo in rovina, tranne coloro che credono, praticano le opere buone e a vicenda si esortano al vero e a vicenda si esortano alla pazienza.